Prima edizione. L'informazione del mattino. Giovedì 14 giugno, buongiorno gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a prima edizione, l'appuntamento con l'informazione del mattino di Radio 24. Questa mattina ci occuperemo più avanti delle ieri tre fiducie votate al governo, ascolteremo l'intervista al ministro Severino. Ci occuperemo del premio Strega, ieri la cinquina, il primo voto per il premio Strega. E poi parleremo di una notizia della notte che riguarda Lance Armstrong, il ciclista, o meglio ex ciclista, della quale parleremo tra poco già nel giornale radio. Sono le 6. GR24, il sole 24 ore. Piano per dismissioni e privatizzazioni, annuncia il presidente del Consiglio Monti. Moody's taglia il rating di Madrid. Accuse ad Armstrong dall'antidoping americano, a rischio anche i titoli al Tour de France. Ok della Camera ai tre voti di fiducia anticorruzione, la Severino incandidabilità al via dal 2013. Calcio Euro 2012, nella super sfida la Germania ha battuto l'Olanda 2-1, stasera c'è Italia-Croazia. Buona giornata dunque da Simone Spezia e dalla redazione di GR24. Il governo sta preparando un piano di cessioni sia immobiliari che di azioni, anche del settore locale, dunque un piano di privatizzazioni e cessione del patrimonio pubblico. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Monti in una giornata nella quale l'Italia è stata ancora sotto i riflettori, dopo l'asta sui bot ad un anno che hanno fatto segnare rendimenti in fortissimo rialzo, dal 2,34% di maggio al 3,97% di ieri. E in mattina di operazione crescita aveva parlato lo stesso Monti alla Camera, ricordando che ci vuole tempo per vedere gli effetti delle misure prese dal governo. Il premier ha poi rivendicato la scelta di fare da sé, rifiutando gli aiuti europei. Se verranno misure per una maggiore crescita, allora gli stessi mercati finanziari riterranno più sostenibile la finanza pubblica italiana, pagheremo uno spread inferiore, i tassi di interesse scenderanno e le imprese saranno più facilitate anziché penalizzate negli investimenti, e quindi questo già metterà più al riparo da contagio. Come da accordo con lo stesso Monti, dopo il vertice dell'altra sera, oggi il PDL presenterà una mozione che fornisce le indicazioni del gruppo al presidente Monti per il Consiglio europeo del 28 giugno. Intanto arriva la scure di Moody's su Spagna e Cipro, rating tagliato per gli iberici da A3 a BAA3, con il paese che resta sotto osservazione. A pesare è l'aumento delle chance che la Grecia esca dall'area euro. A questo si aggiunge la preoccupazione degli Stati Uniti. È improbabile che il G20 annunci significativi progressi sulla crisi del debito nell'eurozona, ha detto un funzionario dell'amministrazione americana. Bene il salvataggio delle banche spagnole, gli ha fatto eco il segretario al tesoro americano Timothy Geithner, che però in vista del G20 denuncia passi modesti dell'Europa verso la crescita. La Grecia intanto si avvicina al voto e cresce la tensione di cittadini e istituti di credito. Crédit Agricole sta preparando un piano d'emergenza nel caso la Grecia uscisse dall'euro. È quello che riporta il Wall Street Journal, che scrive anche che secondo un banchiere stanno uscendo dai depositi dei cittadini nelle banche greche tra i 600 e i 900 milioni al giorno. L'agenzia americana antidoping, notizia della notte, ha avanzato accuse formali nei confronti di Lance Armstrong che potrebbero costare all'ex ciclista alcuni o tutti i suoi 7 titoli del Tour de France. Diversi corridori e altri testimonieranno sulla base della loro conoscenza personale, afferma l'agenzia americana nella lettera nella quale spiega le accuse. Sì, anche se con fatica al DDL anticorruzione, sì a tutti e tre i voti di fiducia richiesti. Polemiche sul primo ok, quello all'articolo 10 sull'incandidabilità dei condannati. Non eletti solo coloro che hanno una condanna definitiva, ma il problema è relativo alla data di applicabilità. Hanno votato contro Future Libertà Italia dei Valori, a loro avviso con la delega i condannati saranno in lista ancora alle prossime elezioni. Il governo assicura faremo di tutto perché invece i condannati non siano eleggibili già nel 2013. Più avanti ascolteremo anche su questo l'intervista al ministro Severino. Il ministro Elsa Fornero invece ancora nella bufera dopo le polemiche esplose due giorni fa sulle cifre fornite dall'INPS sugli esodati, mentre il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro annuncia una mozione di sfiducia nei confronti del ministro. Insieme alla Lega Nord, alla conferenza dell'ILO a Ginevra, botta e risposta tra il ministro e il segretario della CGIL, Susanna Camusso. Io penso ancor più un governo tecnico dovrebbe pretendere la totale trasparenza sulle cose, quindi questa reazione per cui di fronte ai dati ci sono dei colpevoli la trovo assolutamente intollerabile, avrebbero dovuto arrabbiarsi perché ci abbiamo messo 7 mesi a sapere quanti erano. 10 arresti, 24 indagati, tra cui 6 in Grecia, 40 perquisizioni, il bilancio dell'operazione del ROS dei carabinieri che si è svolta ieri contro l'area del cosiddetto anarco-insurrezionalismo. Anna Marino ha intervistato il comandante del ROS, Gianpaolo Ganzer. Siamo in presenza di un'organizzazione transnazionale che ha visto la saldatura di componenti italiane e greche in modo particolare, cui si sono aggiunti esponenti spagnoli, messicani, cileni, che hanno dato vita a una internazionale del terrore anarchico che intendeva proseguire questa strategia anti-istituzionale contro gli esponenti dell'economia, quindi le banche in primo piano, contro gli esponenti della cosiddetta repressione, carcerario, centri di identificazione e di espulsione, e contro gli stessi ambienti della cultura, Università Bocconi di Milano, che è stata appunto oggetto di un attentato dinamitardo. Il simbolo utilizzato per rivendicare l'attentato a Roberto Adinolfi a Genova del 7 maggio scorso è stato ideato da due degli arrestati nell'operazione del ROS. Potente anticiclone africano in arrivo sulla penisola e gran parte dell'Europa, previste nel fine settimana temperature sopra i 30 gradi con picchi in Sardegna e al sud. Le previsioni di Mario Giuliacci al microfono di Francesco Riccardi. Il caldo anticiclone nordafricano, dopo averci lasciato nei giorni passati, ha deciso di sferrare un nuovo attacco alla penisola. Questo fine settimana si affaccerà su quasi tutta l'Italia. L'ondata di caldo durerà dal 15 al 25. Tra il 18 e il 23 di giugno potremo toccare su gran parte dell'Italia, su almeno il 70-80% dell'Italia, temperature massime superiori ai 34-35 gradi, con qualche punta anche di 37-38 gradi. E tra pochissimo, anzi subito dopo la sigla del GR, parliamo di europei, riflettori puntati sull'Italia che affronta la Croazia. Noi appunto sentiamo lo speciale europei, poi Roberto Galullo con Sottotiro, ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione. In breve, l'aggiornamento per quanto riguarda i mercati. Aperti a quest'ora, naturalmente parliamo delle borse asiatiche, come ovvio, dopo una chiusura negativa ieri per Wall Street. Tokyo è aperto con un calo dello 0,66%, altrettanto il calo di Hong Kong, mentre è aperto piatta la borsa indiana. Sono le 6:17 minuti, ci ritroviamo tra poco con una breve rassegna stampa. Prima edizione. Sono le 6, 18 minuti e 34 secondi. Andiamo a vedere dunque che cosa troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. I principali quotidiani aprono quasi tutti con questo piano di dismissioni o piano di cessioni o piano di privatizzazioni annunciato ieri dal presidente del Consiglio Mario Monti, quindi vendita di immobili e partecipazioni di comuni e regioni. Piano di Monti per le cessioni è il titolo del Corriere della Sera. Beni pubblici in vendita, tra virgolette, è il titolo della Repubblica. Beni pubblici sia la vendita e quello della Stampa. Monti pronti a cedere beni pubblici è il titolo del Messaggero. Dunque, come vedete, insomma, si viaggia in parallelo. Fanno un po' di eccezione altri quotidiani, come per esempio il Fatto Quotidiano, che decide di puntare sul DDL anticorruzione. L'ultima beffa, condannati ineleggibili ma dal 2018, quindi decide di puntare su questa versione nonostante la rassicurazione dell'esecutivo. C'è anche l'Unità che titola su questo: condannati via dalle Camere. Il Giornale sceglie un titolo curioso, nel senso che è una vicenda evidentemente hanno solo loro, Libero, oddio torna Prodi, è il titolo, dalla padella alla brace, il governo dei pasticcioni rischia di cadere, ma i segretari di partito non intendono raccogliere la patata bollente, quindi o un Monti bis con politici al posto dei tecnici, oppure mortadella, così Libero. Il Giornale, l'Europa ci minaccia, ricattati con lo spread. Questo solo per dare un quadro generale di quelle che sono le aperture, e però ce n'è uno che non vi abbiamo dato, che è quello dal quale partiamo nella giornata di oggi, ed è il Sole 24 Ore. Partiamo perché la scelta del titolo è lievemente diversa, nel senso che si parla certo in prima pagina anche del piano per le cessioni. Monti pronti a cedere proprietà pubbliche, no a nuove manovre, e questo però è un titolo di spalla. L'apertura vera è la tensione sui bot, tassi al 3,97%, notizia che fra l'altro vi davamo anche poco fa nel Giornale Radio, insomma, perché è stata decisamente una crescita notevole rispetto all'asta di maggio, dove nella quale i bot ad un anno furono collocati al 2,34%, dico furono anche se in realtà era solamente un mese fa, al 3,97% ieri, quindi quasi il 4, mentre perde leggermente quota lo spread a 470 punti base. Il commento di prima pagina, l'editoriale di prima pagina a firma di Guido Gentili oggi, ed è il paradosso dello spread. Il tema qual è? Il tema è quanto i partiti si ricompattino intorno all'esecutivo ogni volta che l'emergenza economica si fa sentire e sembrano rinunciare a questa sorta di campagna elettorale strisciante che nei fatti sta proseguendo. Ma c'è anche un piccolo commento in prima pagina dedicato proprio a questo, dedicato proprio ai bot. La Merkel non affretta il mercato, sì, dove si riprende anche la famosa prima pagina dei giorni scorsi, quella di martedì, della quale vi abbiamo raccontato. Schnell Frau Merkel, presto signora Merkel. A centropagina ancora vicende europee, Hollande, la BCE, i poteri sulle banche, piano francese per il vertice europeo, credito da ricapitalizzare col fondo salva stati, mentre ci informa Dino Pesole dalla prima del Sole 24 Ore che sulla cosiddetta Golden Rule, ossia la possibilità di detrarre gli investimenti dal computo del deficit, c'è un'alleanza tra Roma e Parigi. Segnaliamo anche che, insomma, tra i pochi quotidiani che lo riporta in prima pagina, una questione interessante rispetto alla vicenda di JP Morgan. Come sapete, la banca ha perso 2 miliardi di dollari in una serie di operazioni di trading andate male, piuttosto, insomma, complesse e andate male. Ebbene, dice JP Morgan, un errore le perdite, ma non ci vogliono più regole. Veniamo al Corriere della Sera. Come si diceva, il piano di Monti per le cessioni, in vendita immobili e partecipazioni di comuni e regioni. Il Mario Sensini dà dettaglio dei nuovi fondi del progetto sul patrimonio, i nuovi fondi della Cassa Depositi per le dismissioni. Da segnalare l'editoriale di prima pagina, che è un po', se vogliamo, anche sulla linea di quello che dicevamo prima, che si trova sul Sole, che è a firma di Sergio Romano e riguarda proprio il tema delle forze politiche, il loro rapporto con il governo, una solidarietà non di facciata. I maggiori partiti, scrive, sembrano aver compreso che non potevano assistere con una sorta di compiaciuta indifferenza al declino dell'autorità del Presidente del Consiglio. Un pezzo di Federico Fubini sul Corriere ci parla della grande fuga dei capitali in Europa e dei timori per la moneta, a centropagina invece si passa naturalmente alle norme anticorruzione, come prevedibile, che passano con 3 voti di fiducia le polemiche sui condannati. A proposito delle polemiche sui condannati, quindi della possibilità di un rinvio della norma che prevede che i condannati, un rinvio al 2018 della norma che prevede che i condannati per reati gravi non siano candidabili, un passo falso da correggere, come promettono i ministri. A centropagina, come si diceva, anche il tema della nazionale, oggi la Croazia, Prandelli sceglie Balotelli ma già pensa alla staffetta con Di Natale. La Repubblica, l'apertura l'abbiamo detta, beni pubblici in vendita, si parla anche in prima pagina della Spending Review, c'è un dossier a firma di Roberto Petrini, bondi taglierà per 5 miliardi, scorte, sanità e consulenze d'oro, le misure sulla Spending Review prima del Consiglio europeo di fine giugno. Anche qua le polemiche per quanto riguarda la corruzione. Un titolo sul blitz dei ROS contro gli anarchici, del quale vi abbiamo parlato poco fa, e in prima pagina anche la chiusura del billionaire, chiude anche il billionaire, addio pacchianeria nazionale. Questo per quanto riguarda la Repubblica. La Stampa, scusate, anche qua apertura, come si diceva, su dismissioni e privatizzazioni, un racconto per quanto riguarda gli esodati, rebus per 325.000, così è nato il pasticcio di chi ha perso le tutele, pezzo a firma di Paolo Baroni. Per quanto riguarda la sanità, il prelievo colpirà i big del farmaco, ma i ticket sui ricoveri sono soltanto rinviati. Il commento di prima pagina, in questo caso a firma di Franco Bruni, che il titolo è Il conto salato di un'unione senza euro. Franco Bruni, economista. Passiamo al Messaggero. Monti pronti a cedere beni pubblici, in vendita i gioielli degli enti locali, a Berlino elogio dell'Italia. Anche qua si parla del piano di Bondi per ridurre il numero delle scorte. Bondi accelera sul piano tagli. Il commento di prima pagina firma di Gianmaria Grospietro, se arriva il cambio di rotta. Dunque, come sentite, un po' tutti gli editoriali sono dedicati al tema, quasi tutti, al tema della, naturalmente, della situazione economica e dei rapporti con questa maggioranza, oltre che naturalmente sui prossimi provvedimenti economici dell'esecutivo. Centropagina, foto della nazionale che si gioca il futuro, vietato sbagliare con la Croazia, e mette in prima pagina il Messaggero una vicenda che d'altre parti, invece nelle pagine interne, sulla trattativa Stato-mafia, indagato l'ex ministro Consolo, l'ex ministro della giustizia Giovanni Consolo, indagato per falsa informazione a pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta condotta a Palermo sulla trattativa tra Stato e mafia. C'è anche spazio per un titolo sul premio Strega, scelti gli scrittori che il 5 luglio se lo contenderanno, sono stati votati nell'ordine Emanuele Trevi per Qualcosa di scritto, quindi primo. Ne parleremo più avanti e sentiremo anche gli altri nomi all'interno di Prima Edizione. Come si diceva, il titolo del Fatto Quotidiano di apertura è L'ultima beffa, condannati, ineleggibili ma dal 2018, e

da una storia che in realtà con la telecamera non sarei riuscito a raccontare, perché è una storia legata al carcere minorile Ferrante a Porti di Torino, e ho iniziato proprio da lì. Questo è il suono della porta, della scuola, dell'attività, anche per andare ai passeggi. Questo è il suono della sigaretta quando andiamo nel pensatoio. Il pensatoio è questa finestra che vede alle nostre spalle. Vediamo aria che trasmette angoscia, sinceramente. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli, torniamo oggi alle 13.30, parleremo di sculture vive e quelle che trovate a San Benedetto del Tronto a partire dal 16 di giugno. Sono le 6 e 40 minuti, dunque iniziamo i nostri spazi di approfondimento e li iniziamo con il nostro Dario Ceccarelli. Buongiorno Dario. Buongiorno Simone. E parliamo questa mattina di una notizia che è arrivata nella notte e che riguarda un grande del ciclismo, Lance Armstrong. Dario, che cosa è successo? Sì, sarebbero a rischio i titoli di campione del Tour de France di Armstrong. Ricordiamo che Armstrong ha vinto 7 Tour, è quello che il corridore che in assoluto ne ha vinti di più, e l'agenzia americana antidoping ha aperto una procedura formale nei suoi confronti per il fatto che secondo dei test che hanno fatto, alcuni campioni di sangue prelevati al ciclista nel 2009 e nel 2010 sono, si legge, perfettamente compatibili con manipolazioni sanguigne, incluso l'uso di EPO e trasfusione. Ecco, poi ci sarebbero diversi compagni di squadra di Armstrong nella USA Postal che sarebbero pronti a testimoniare. Ecco, È curioso che arrivi a questa distanza, perché poi un corridore come Armstrong viene sottoposto regolarmente a dei test antidoping, teoricamente lo dovrebbero beccare immediatamente. Hai detto bene, ricordiamo che Armstrong nella sua carriera si è sottoposto a 500 test antidoping senza mai risultare positivo. Io non penso che Armstrong sia uno stinco di santo, perché non si vincono in quegli anni 7 Tour andando a pane ed acqua, ecco, questo non credo. Però credo anche che riferirsi a indagini molto vecchie con testimonianze tipo quella di Floyd Landis, che è un corridore che aveva vinto un Tour de France e due giorni dopo gliel'hanno tolto subito perché era più drogato di tanta altra gente che va in giro a bucarsi. Ecco, io credo che sia un po' così una caccia inutile, nel senso che forse sarebbe il caso di concentrarsi sul presente. Poi ho l'impressione che ci siano delle battaglie interne allo sport americano, dove tra questa agenzia ed Armstrong sia diventata una specie di sfida personale, e quindi sicuramente quegli anni lì del doping nel ciclismo sono una delle pagine più oscure, più nere dello sport. Però è anche vero che lui si è sottoposto a dei test 500 e non è mai risultato positivo. Allora non si può continuare ad andare a ritroso. Chiudiamola questa pagina e concentriamoci sul presente. Grazie al nostro Dario Ceccarelli. Per il resto dello sport, in particolare per gli europei, vi rimando naturalmente al nostro speciale europei subito dopo il giornale radio delle 7. Noi cambiamo argomento e veniamo al DDL anticorruzione. Come abbiamo detto ieri, i tre voti di fiducia, oggi il voto finale. C'è anche al centro il tema dei condannati in Parlamento e dell'eleggibilità dei condannati. Dunque ascoltiamo l'intervista della nostra Alessandra Schepisi proprio al Ministro della Giustizia Severino. Ma intanto io direi che dobbiamo riconoscere il grandissimo senso di responsabilità della maggioranza che ha sostenuto il governo. Infatti, nonostante non vi fosse stata un'adesione totale al contenuto del provvedimento, la fiducia su questi tre articoli è stata data, e credo che questo sia un segnale forte di grande senso di responsabilità del Parlamento rispetto al governo, rispetto agli sforzi che tutti stiamo facendo per cercare di dare delle leggi migliori e più efficaci al nostro paese. La fiducia c'è stata, però ci sono stati molti mal di pancia all'interno della maggioranza che sostiene il governo. Ma mi sento di dire una cosa, questo era un provvedimento difficile nel quale il governo ha cercato di considerare alcuni apporti del tutto contrapposti tra di loro e di portarli su una linea di rigore, sì, ma anche di equità, quindi su una linea che potesse stare nel mezzo. Allora, quando si cerca di stare nel mezzo, da un certo punto di vista si raggiunge un buon risultato, perché si eliminano gli estremismi di eccesso giustizialismo, di eccessivo giustizialismo o di eccessiva, connotazione in termini di buonismo di un provvedimento, e questo è senz'altro un bene. Però non si evitano le critiche, naturalmente, perché più un provvedimento è al centro, più è destinato ad avere le critiche di chi è agli estremi, ma questo mi sembra nella natura delle cose, mi sembra anche nella natura di un dibattito che comunque è serio, è aperto a tutte le alternative. Stiamo parlando di temi veramente difficili, complessi, sui quali ognuno è legittimato ad avere la propria opinione, purché si tratti di un'opinione seria, di un'opinione che tenga conto della situazione giuridica e giudiziaria del Paese. Ci sono state però molte polemiche, soprattutto sull'articolo 10, sulla non candidabilità dei condannati. Preoccupa quella delega di un anno che farebbe slittare la misura a dopo le elezioni del 2013. Parlare di un termine di un anno vuol dire parlare di un termine massimo di un anno. Il che vuol dire anche che, se la situazione lo consentirà, la delega potrà venire esercitata prima del termine di un anno. Quindi faremo di tutto per che questa delega non rappresenti una promessa non soddisfatta, naturalmente se le condizioni politiche e le condizioni generali ce lo consentiranno. E dunque questa era l'intervista al ministro Severino. Sentiamo cosa succede su strade e autostrade. Subito dopo parleremo del premio Strega. Prima edizione. Come si diceva, parliamo del premio Strega, ieri scelta la cinquina. Sentiamo la nostra Alessandra Tedesco. Allora, do lettura ufficiale dei risultati. La cinquina: Ghinelli 38, Fois 64, Piperno 68, Carofiglio 70, Emanuele Trevi 92. Così Edoardo Nesi, ieri sera verso le 22, ha annunciato la cinquina del premio Strega, e spettato a lui, in quanto vincitore dell'anno scorso, presiedere lo spoglio. I pronostici della vigilia sono stati in parte rispettati. Nei primi quattro posti le grandi case editrici. E così al primo posto, questo un po' a sorpresa, Emanuele Trevi con il libro su Pasolini, pubblicato da Ponti alle Grazie, gruppo GEMS, un risultato che neanche lo scrittore si aspettava. No, non mi aspettavo la cinquina, francamente, perché c'era una buona atmosfera attorno al libro, e poi chiedevamo dei voti, cioè, avevamo dei sì, insomma, anche delle non dirò quali, ma proprio dei voti che mi hanno molto onorato, insomma. Però non avevo idea di quello, no. Se avessi dovuto fare una scommessa, avrei detto che primo sarebbe stato Piperno. Al secondo posto Gianrico Carofiglio con Il silenzio dell'onda, Rizzoli. A lui era andato il voto collettivo delle scuole. Un terzo posto, forse un po' deludente, per Alessandro Piperno, Mondadori, 68 voti, è andato via subito dopo la votazione, senza voler rilasciare dichiarazioni, come un po' nel suo stile. Al quarto posto Marcello Fois, Einaudi con Nel tempo di mezzo. Il suo romanzo è candidato anche al Campiello. Quale premio preferire? Beh, preferisco vincerli entrambi, devo dire. Mi sembra, non so a quanti sia successo nella carriera. Sarebbe bello, no? Un filotto da questo punto di vista. Se Fois ha l'imbarazzo della scelta, Lorenza Ghinelli sprizza gioia da tutti i pori. Il quinto posto è suo con il secondo romanzo Newton and Compton. Prevale l'emozione in questo momento, è un risultato che non mi aspettavo, ma nel quale speravo, veramente. E quindi sono contenta perché è una bellissima occasione per rendere ancora più visibile il libro, è una bellissima occasione ed è anche un incentivo a scrivere. Finita la fase della cinquina, il premio Strega entra nel vivo. In vista della finale del 5 luglio, le case editrici e gli scrittori cercheranno di accaparrarsi più voti possibili, come racconta Nicola La Gioia, scrittore e amico della Domenica, quindi giurato dello Strega da soli 2 anni. Una rottura di scatole continua, perché ti chiama, ovviamente, cioè, il problema, no, del premio è che è quello, poi è risaputo perché anche sui giornali si dice il fatto che le case editrici fanno molta pressione sui giurati per convincerli a votare. Però io, questi 2 anni di esperienza da amico della Domenica, basta dire: guarda, senti, il voto allo Strega dovrebbe essere come il voto politico, cioè segreto, e quindi arrivederci e grazie. Ed è tutto per Prima Edizione. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Diego Rovelli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco con il giornale radio.